notte a Tokyo, profumo di eroe, rumori lontani di mille astronavi e tanti robot. È notte a Tokyo, è giorno da me, nella mia piccola città, con pochi sogni e troppe verità. È notte a Tokyo, nei templi di Ueno, a Shinjuku e i bar, e nel caffè di Akihabara. E invece sono qui a cercare un altro manga che mi dia la forza di sognare, di essere ancora lì. E giro, giro, tondo, e casca tutto il mondo. Si schiaccia la terra e in pochi minuti io mi ritrovo a Tokyo. E giro, giro, tondo, è proprio bello questo mondo. Non si dorme mai, e karaoke un triage a cantare Fly me into the moon. È notte a Tokyo, silenzio perfetto di mille suoni e colori che invadono forte tutta la mia testa. E invece sono qui a guardare un altro anime che mi trasporti lontano, dove vorrei essere. E giro, giro, tondo, e casca tutto il mondo. Si schiaccia la pelle in pochi minuti, io mi ritrovo a Tokyo. E giro, giro, questo mondo, e stringo i pugni e chiudo gli occhi, e mi ritrovo a Tokyo. Energia, fatalità, libertà, natura magica, un po' fantasia, un po' verità. In pochi minuti io mi ritrovo a Tokyo. E giro, giro, tondo.